Se vi state domandando se esisterà una prossima stagione di Boca Chica Cosmodrome, beh, non lo sappiamo neanche noi, quindi... E quindi che dirvi? Esatto, restate in onda. Continuate perché... a domandarvelo. Restate in onda perché parte la diretta, proprio adesso, con un ospite speciale questa sera dell'ultima puntata, la 13ª di Boca Chica Cosmodrome della seconda stagione. Ma prima di dirvi tutto e svelarvi un po' di misteri, la nostra sigla. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. Para verlo, para verlo bien. No dimos ni E allora ci siamo. Se non vi siamo stati utili, speriamo almeno di esservi, di avervi tenuto compagnia in questi giovedì serali notturni, in queste 13 puntate di Boca Chica. Comunque esiste ancora, dobbiamo ancora fare questa ultima, quindi non disperate. Forse questa vi piacerà. Forse questa sì, ma anche le altre. Io ho il compito, come al solito, di riassumere un po' di cose, ovvero Boca Chica Cosmodrome è alla seconda stagione, quindi sul sito del Forte Prenestino, forteprenestino.net, da cui tra l'altro in diretta trasmettiamo da Radio Forte nel centro sociale occupato autogestito di Roma a Forte Prenestino, trovate, dicevo, in forteprenestino.net la slot di Radio Forte, la slot di Boca Chica, in cui trovate tutti i nostri podcast, quelli della scorsa stagione e quelli appena andati in onda questa stagione, in ormai quanto, Bimo, 3 mesi? Circa 3 mesi. Beh, insomma, noi stasera siamo molto felici perché ancora non ve la presentiamo, ma abbiamo un super ospite, è un ospite molto particolare, infatti la puntata sarà un po' diversa, avremo un po' meno approfondimento, ma una sorta di intervista, e vi sveleremo anche un segreto che abbiamo serbato. Sì, un segreto lurido che ci teniamo dentro da mesi. Nel nostro cuore. Intanto vogliamo salutare Andro, che anche stasera non è con noi, ma lo è col cuore, e vogliamo salutare anche Null Pointer, che doveva essere... Che anche lui. Non è qui, ma è qui noi, con noi col cuore. Anche lui. Che doveva essere qui, però per cause di forza maggiore non poteva essere, ma è un compagno che è organico. Che ha un grande cuore. Che è organico soprattutto al progetto che vi sveleremo. Comunque, insomma, io vi voglio ricordare anche che abbiamo un gruppo Telegram. Questo gruppo Telegram si chiama come la trasmissione, Boca Chica Cosmodrome, quindi lo trovate su Telegram. Vi potete iscrivere, nonostante poi si vada in chiusura, perché potete continuare a farci domande. Ci saranno ancora per un po' aggiornamenti, ma poi sarete informati anche sul fatto se o meno, ma sicuramente ripartirà una terza stagione. Dobbiamo solo decidere alcune coordinate, che speriamo che questa sera magari... Tipo cosa dire? Speriamo che questa sera comunque vengano anche un pochino fuori. Quindi il sito l'abbiamo ricordato, dove trasmettiamo, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il nostro gruppo Telegram l'abbiamo ricordato, e c'è una costante di questa seconda stagione, Bimo. Eh sì, è il 45 giri. È il 45 giri, stasera veramente... L'ultimo 45 giri, per fortuna stagione. Perché erano finiti. No, ne avevamo tanti, tantissimo materiale. Però era meglio se erano finiti. Ah sì, era... Molto più drammatico, più drammatico. Non ho avuto la presenza di spirito per starti dietro. Vabbè, andiamo con questo 45. Settembre 1959. Per la prima volta nella storia dell'umanità, una macchina ideata e fabbricata dall'uomo, l'UNIC 2, si è schiantata sul nostro satellite. L'astronautica sovietica con questa impresa pone una seria ipoteca nella corsa verso la Luna. Ma non basta. Poche settimane dopo, un'altra sonda lanciata dalla base di Baikonur può rivelare agli scienziati e al mondo nuovi segreti nascosti della faccia sconosciuta della Luna. Ma siamo appena agli inizi della corsa. Il primo vero obiettivo è quello dell'allunaggio morbido di una sonda automatica. Falliscono molti tentativi, poi finalmente l'impresa riesce ai primi di febbraio del 1966. Thank you. In tutto il mondo si sparge la notizia. La Luna non è poi così lontana come sembrava. Giornale radio. L'UNIC 9, una sfera di circa 100 kg e con un diametro di poco superiore ad un pallone da basket, lanciata il 31 gennaio scorso, si è staccata dal veicolo madre prima che esso si sfracellasse sulla superficie selenica e ha toccato il suolo lunare senza riportare danni alle apparecchiature. Zona dell'allunaggio, l'oceano delle tempeste, ad occidente dei crateri Rainer e Maria. Altri particolari dell'impresa si apprendono qualche tempo dopo dalle stazioni di Radio Mosca, oltre che dalle pagine della Pravda. Сразу после прилунения защитные щитки распустились. Subito dopo l'allunaggio, schermi protettivi si sono aperti a petalo, esponendo i pannelli di cellule solari per l'azionamento della telecamera, che, prima del totale esaurimento della fonte di energia, ha inviato alle stazioni a terra 27 fotogrammi di rocce e suolo selenico. L'astronautica sovietica ha battuto di nuovo in tecnica e spettacolarità quella americana, dando prova che la grande avventura dello sbarco umano sulla Luna è sempre più vicina. È un grande successo di prestigio e i tecnici della base di Baikonur lo rendono ancora più massiccio due mesi dopo, quando l'UNIC 10, lanciata il 31 marzo del 1966, si immette in un'orbita lunare munita di complesse apparecchiature allo scopo di misurare le radiazioni nella fascia cislunare, studiare il magnetismo, determinare la compattezza della crosta selenica, sapere di più, insomma, sulla nascita della Luna. Con la serie LUNIC, l'astronautica sovietica, oltre che a dimostrare di disporre di vettori più potenti di quelli statunitensi, raccoglie informazioni preziose sul vento solare, su quel flusso di particelle, cioè, che secondo gli studi del 1951 dell'astrofisico Ludwig Biermann dovrebbe sprigionarsi dal Sole ad una velocità di 300 miglia al secondo e con una densità di 100 particelle per centimetro cubo durante le fasi di bassa attività solare e con una velocità di 900 miglia al secondo durante i periodi di sole inquieto. Le sonde sovietiche trasformano la teoria in pratica. Si tratta di un vento che soffia continuamente nell'intero spazio interplanetario e le cui particelle comprendono frammenti di atomi, di idrogeno e di elio. ...22 febbraio 1966... lancio del Cosmos 110... L'agenzia giornalistica sovietica TASS non si limita, a differenza dei precedenti lanci Cosmos, ad un laconico annuncio di poche righe. È un lancio, si afferma, che prepara la strada ad una nuova serie di voli sovietici con uomini a bordo. Questa volta tocca a due cani, Veterok e Ugolek, Brezza e Carboncino. Spetta ai due animali, sistemati all'interno del satellite, spiegare alla scienza sovietica in termini più precisi e validi come cuore e sistema circolatorio reagiscano ad una prolungata situazione di imponderabilità. Cosmos 110 termina la sua missione con perfetta regolarità dopo 22 giorni. I due cani tornano alla base in ottime condizioni e con un'imponente quantità di dati raccolti durante il volo. L'elaborazione dei dati è affidata ad un gruppo di scienziati diretti dal professor Boris Yegorov, il quale, al termine della missione, dichiara alla stampa. Molte domande sull'adattamento di un essere vivente ad un lungo periodo di imponderabilità e sulla capacità di compenso dell'organismo al momento del rientro hanno finalmente una documentata risposta. E la risposta rimarrà in sospeso e forse ce la darà il prossimo anno, Vimo che dorme, ce la darà il prossimo anno una nuova stagione di Boca Chica Cosmodrome. Va bene, che facciamo, Vimo? Ma io volevo dire selenico e quindi allora, mi ero concentrato su selenico. Ah, e tra l'altro mi hai bruciato la battuta, perché selenico fa un po' rima con la nostra... Vabbè, vabbè, d'accordo. Ma forse è stato meglio così. Sì, adesso. Va bene, sì, forse sì, sì. Allora, quindi siamo, presentiamo l'ospite a questo punto. Io, come dire, non anche pigio... volevo dire anche sì, imponderabilità. Vai. Va bene, va bene, va bene. Allora, l'ospite di questa sera è una compagna che, diciamo, oltre ad attraversare gli spazi sociali occupati, autogestiti, quindi in generale il movimento, possiamo dire che lavora nel settore. Serena. Sì. Ciao Serena, buonasera. Ciao, ciao. Vuoi dirci qualcosa di più oltre in, che lavori... In quale settore? Esatto, che lavori nel settore... In quale settore lavori, Serena? In quello del capitale spaziale. Ah, oh... Lo ammetti così sei nel posto giusto. Nel posto giusto, sì. Potresti essere anche giustiziata dal Tribunale del Popolo. Sì, va bene, noi ti abbiamo invitato per varie ragioni. Intanto perché ci interessa molto. Tra l'altro tu sei stata spesso ospite di Radio Onda Rossa proprio per parlare di capitalismo spaziale o comunque di evoluzione delle pratiche spaziali. Tu lavori proprio nel settore in una maniera molto concreta. In realtà sei un ingegnere e lavori non in Italia. Possiamo dire che lavori alla messa in orbita di qualcosa, insomma. Sì, il nostro progetto. E che in realtà sei stata anche coinvolta in qualcosa di cui parleremo dopo. In questo momento quello che ci interessa, di cui ci interessa parlare con te è un po' di come vedi tu gli sviluppi del capitalismo spaziale, cioè di questa nuova fase del capitalismo, di questa new economy del capitalismo. Vista dall'Europa, tra l'altro. Dall'Europa e da dentro il settore. Noi, insomma, siamo in realtà, sia io che Bimo, che Ray, che Andromalis, che siamo comunque un po' esterni, ovviamente. E invece tu hai parliamo un sacco, ma... ma parliamo come se fossimo interni. Esatto. E tu invece hai un punto di vista molto interno, quindi ti lascio la parola. Intanto dice, è vero questa cosa di Radio Onda Rossa, tu spesso sei... Sì, allora ho avuto l'occasione di parlare a Radio Onda Rossa con il programma Entropia Massima, dove si affrontavano una serie di tematiche scientifiche e poi la puntata di chiusura si concentrava su quello che era appunto il capitale spaziale. Quindi sì, abbiamo affrontato un po' la tematica dal punto di vista dell'attualità in quello spazio e diciamo che per me costruire uno spazio come quello, come questo anche, è particolarmente stimolante. Ti posso chiedere, lo definivate capitalismo spaziale, capitalismo extraatmosferico? Capitale spaziale, si parlava okay. Di capitale spaziale, quindi quanto diciamo il capitale stava incrementando e sì, diciamo progredendo nel settore spaziale, che è poi appunto quello che si chiama New Space, Space Economy. Ovvero da quando il settore spaziale, che era prima solo retaggio delle agenzie spaziali, è diventato un settore commerciale. Si è commercializzato, si sono commercializzate le osservazioni della Terra da satellite, come anche i lanci. Insomma, ci sono vari settori ormai che sono diventati poi adesso un luogo di profitto, ecco, quindi è questo pure, no, che vogliamo analizzare. Quindi per me questo spazio è anche, diciamo, necessario ormai, perché il settore ormai è, diciamo, c'è bisogno di guardare a questo avanzamento in maniera già un po' più critica e consapevole, si è ormai ben impiantato, fa profitto appunto, e quindi insomma si possono identificare una serie di, dal mio punto di vista, ci ho pensato, ho detto ok, diciamo un'analisi, una modesta analisi che posso fare lavorando nel settore e avendo ovviamente anche insomma la prospettiva di quello che è capitalismo e sfruttamento, perché ovviamente le due cose insomma vanno di pari passo, come questo si sta adesso sviluppando e come sta avanzando nel settore spaziale. E io ho visto che insomma nelle varie puntate avete toccato un sacco di punti che adesso insomma possiamo un po', io ho pensato un po' di ricapitolare, di anche nominare qualcos'altro che magari può essere un nuovo spunto da guardare per le prossime puntate, forse. Assolutamente, sì, la prossima stagione esattamente. Quindi insomma voi avete parlato ampiamente della questione delle risorse, la questione delle risorse non soltanto quelle dei minerali spaziali, ma anche le risorse dello spazio che c'è nelle orbite terrestri, che sono chiaramente insomma una risorsa vera e propria, se non, e questo è un argomento che abbiamo toccato anche appunto a Entropia Massima, a quell'altro programma, di diciamo, sarebbe bello concepirle più come un bene comune, che era poi quello che era la grande differenza, no? Esatto, esatto, che era poi come si era anche inizialmente, no, concepito con i trattati vari che Bimo ha nominato nel corso delle puntate. Quindi insomma sì, ci sono vari livelli sui quali già il capitalismo opera nel settore spaziale, ed è quello dell'utilizzo delle risorse, da quelle nello spazio aperto e infinito fino alle orbite, tornando insomma più proprio sul livello di orbite terrestre. Scusatemi. Diciamo che c'è anche già una gerarchia nell'accesso alle orbite, nell'utilizzo delle orbite. Tutti i paesi che comunque hanno avuto, diciamo, sono stati più veloci nello sviluppare le tecnologie per accedere allo spazio, hanno poi, diciamo, la possibilità di riaccedere e riutilizzare le stesse orbite, che stanno diventando ovviamente anche molto, insomma, trafficate, come avrete detto. Sono una risorsa limitata che sta diventando scarsa poi nel tempo. Esatto. Malgrado apparentemente sia gigantesca, no? Sì, non lo è, perché poi quelle più, diciamo, ambite sono quelle basse, le orbite basse, dove comunque si possono operare un sacco di settori del remote sensing, quello che si chiama remote sensing, e serve stare nelle orbite basse, quindi insomma ovviamente sono trafficate, iniziano a essere piene, c'è il problema anche dei detriti spaziali, che ovviamente avete anche. Questo è un problema tipico di geopolitica spaziale, tra l'altro. Esatto, sì, pure perché i punti di Lagrange, sì. Insomma, diciamo, è ricalcata, diciamo, questa geopolitica spaziale è molto ricalcata su quella talassocratica, cioè legata al mare praticamente, e lì dove nel mare i punti nel dominio del mare i punti sono costituiti soprattutto dagli stretti, qui si hanno le orbite invece, mm-hmm. No? Nella geopolitica spaziale, appunto, le orbite, i punti limitati di Lagrange, che sono dei punti speciali, così come gli stretti marittimi sono dei punti speciali nella talassocrazia, nella geopolitica terrestre, marittimo terrestre. Sì, esatto. Quindi sì, diciamo che ci sono svariati livelli sui quali queste, non so, nel senso, diciamo che il capitalismo spaziale praticamente adesso si manifesta, manifesta le disparità che ci sono sia sul livello geopolitico, come anche, se vogliamo, quello di classe, che comunque non è certo. La questione di classe. Abbiamo parlato anche di questo. Sì, quindi insomma dal punto di vista dei lavoratori, dal punto di vista di come certi settori sono fonte di profitto e poi vengono appunto i soldi di questi magnati che ormai operano in tutti i settori, questo è pure un altro aspetto da considerare. Sì, vogliamo... Io ti volevo chiedere, tu hai introdotto un concetto interessante, quello appunto di classe, e siccome noi abbiamo sempre tentato di fare critica del capitalismo spaziale, però con il contraltare di un cosmo anticapitalismo, cioè comunque lo spazio non è qualcosa a cui non aspirare, qualcosa da difendere probabilmente dall'espansionismo capitalista, non dall'espansione umana, che invece in realtà può essere tutt'altro. Esatto. Ecco, in un'ottica di classe, come lo spazio secondo te può essere visto dalla classe non dominante? Cioè, che risorse, che tipo di risorsa può costituire per la classe non dominante lo spazio esterno, extraatmosferico? Diciamo che a livello di classe immagino molto il discorso anche proprio della manodopera, che comunque oggi nel settore spaziale, come che poi ovviamente è diventato quello tecnologico, quello del tech, dell'high tech. Tu sei una proletariata dello spazio. Esatto. una proletaria dello spazio. Proletaria, sì, nel senso, sì, una lavoratrice. Sì, i nuovi metalmeccanici del settore digitale e tecnologico, perché ovviamente insomma è un settore che poi spazia dall'ingegneria dell'hardware fino a ovviamente ormai il software e tutti i dati che vengono prodotti, e su questo anche toccherò, insomma, su questo punto dopo in finale. Diciamo che a livello di manodopera quello che si osserva è che le aziende private che avete analizzato, insomma, ampiamente nelle puntate precedenti, ormai sono delle aziende che sono multinazionali, che operano però credo in un con un modello anche un po' diverso, perché ormai anche il lavoro da remoto ha praticamente abilitato una distribuzione della manodopera globale, senza dover avere anche per le aziende stesse delle sedi ovunque, giusto perché comunque si può prendere manodopera a un costo nettamente diverso da quello che è il costo del dipendente in America. E quindi insomma c'è questa distribuzione globale che permette manodopera a basso costo, e l'altro aspetto che osservo è che genera anche un flusso proprio di lavoro H24, quindi questo è proprio un livello di aziende insomma che hanno un modello produttivo anche diverso, e di sfruttamento che chiaramente diverso. sì assolutamente. Il senso di quello che ti chiedevo era molto legato alla possibilità che in realtà ci sia una rivalsa della classe che non controlla i mezzi di produzione, se ancora, o comunque non finanziaria nello spazio, come opportunità dello spazio. Però magari ne parliamo tra un pochino. Che dici, Bimbo? Andiamo un pezzo, poi rientriamo e parliamo, ci riagganciamo. No, e poi... assolutamente, perché è un discorso molto interessante questo. Vuoi sottolineare a differenza di tutto ciò che abbiamo detto fino adesso, puntate. No, assolutamente. È Serena, ha voluto essere presente sempre. È un discorso che noi abbiamo anche un po' toccato. L'abbiamo toccato. E tende a tornare. Il punto è: le classi che sono in qualche modo al momento escluse da questa nuova dimensione dell'umanità, che spazio? Questo purtroppo è un gioco di parole che non volevo fare, però comunque, che spazio avranno? E come possono averlo? In qualità di cosa? No? E soprattutto anche quando, perché io posso immaginare che all'inizio saranno tagliati fuori per forza di cose, perché saranno i super ricchi e i super tecnici ad avere accesso allo spazio. Ma quando lo avranno anche gli altri, no? In qualità di cosa soprattutto appunto che parte della torta gli sarà riservata? Piccolissima, immagino. Su questo interrogativo, secondo me, parte... Riflettiamo. Intanto riflettete e sentitevi concentratissimi in primo brano. Assolutamente. Thank you. È assolutamente strano che non avessimo mai mandato questo pezzo, Bimo, che sì, in realtà è uno scandalo. È una cosa molto, sì, molto, molto strana, perché insomma se lo merita. Vabbè, comunque, io vi ricordo che siamo in diretta da Radio Forte, dal CSO. Ma per i giovani che non lo conoscono, vogliamo dire. Ah, giusto, sì, pensavo di averlo detto, sì, quindi gli Space Magic Fly, assolutamente, quindi insomma loro sono anche bardati come cosmonauti. E quindi ci sembrava il caso, e in 20 puntate non ancora non avevo mandato questo brano. Allora, siamo in diretta come tutti i giovedì da Radio Forte nel centro sociale occupato autogestito di Roma, Forte Prenestino, e questa è Bocca Cica Cosmodromo, l'unica trasmissione nell'universo che si occupa di espansione del capitale nello spazio. E ci avevamo lasciati proprio con un interrogativo che forse, Bimo, riassumiamo in due parole e poi lasciamo la parola esatto, a Serena. Esatto, l'interrogativo è quando chi è in questo momento tagliato fuori dallo spazio per motivi, che possiamo dire motivi anche di classe alla fine, e si può immaginare uno scenario in cui invece questa parte dell'umanità rientrerà in un discorso spaziale? Io volevo dire semplicemente, prima di lasciare la parola a Serena, volevo dire che nella mia riflessione iniziale non c'era solo l'idea del profitto. Io ad esempio vedo lo spazio cosmico come opportunità, anche nel senso di un liberarsi di quelli che sono i vincoli prettamente terrestri, e quindi quello, come dire, quei vincoli ambientali, politici e anche un po' come dire epistemologici che ci hanno portato ad essere quello che siamo. Forse lo spazio, questo riacquisito nomadismo, e quindi no, questo non essere solo esclusivamente su un pianeta, può ridarci una dimensione un po' più larga, una dimensione anche visiva un po' più estesa, che non sia solo quella della protezione del piccolo pianeta che abbiamo. Però insomma, Serena. Sì, sarebbe bellissimo. Però purtroppo, vabbè, come abbiamo insomma analizzato e riconosciuto già altre volte, purtroppo si sta proiettando un po' la dinamica che abbiamo, le dinamiche capitaliste, poi insomma i sfruttamenti che abbiamo sulla Terra, anche purtroppo nel processo di espansione nello spazio. E, per tornare sì alla domanda di quando quella parte che diciamo che è tagliata fuori, la risposta è mai. No. Allora diciamo che è la risposta sensata adesso, sì. O oggi è la risposta sensata? Allora sì, oggi, diciamo al giorno d'oggi sì, anche perché analizzandola da vari punti di vista, per esempio una cosa che stavi riportando in una delle puntate precedenti era anche come, come nominavo prima, questi magnati che operano in vari settori ormai, e quello dello spazio è diventato il prossimo nel quale insomma iniziare le proprie aziende. Ovviamente possono sfruttare la ricchezza accumulata da altri settori e adesso investirla in questo. Quindi in realtà in qualche modo purtroppo quella manodopera che è esclusa da questo processo, anzi è inclusa involontariamente, sì, è indirettamente inclusa. Sì, ovviamente nei termini di sfruttamento, poi perché Amazon, insomma, Amazon che era l'esempio che nominavi tu, ha fatto chiaramente insomma soldi con questo tipo di azienda. Adesso c'è il progetto anche Cooper, che è insomma il nuovo progetto spaziale di Amazon, e questo ovviamente va ad incrementare tutta questa forbice sociale e queste disparità, perché queste nuove aziende possono anche pagare i dipendenti, specialmente ovviamente negli Stati Uniti, in maniera molto, cioè, con stipendi molto più alti rispetto ad altre aziende che operano solo nel settore spaziale. Quindi c'è proprio veramente una forma di sfruttamento del profitto che proviene da altri settori e è poi reinvestito e insomma se ne trae beneficio in quello proprio del settore spaziale. Quindi possiamo pensare, anche, sì, pensare che dai pensionati, no, pensionati in realtà sono gli anziani nomadi che lavorano negli Stati Uniti, nei centri di smistamento Amazon, venga estratta la ricchezza che poi purtroppo queste nuove queste aziende che adesso operano nel settore spaziale, appunto non essendo soltanto aziende specializzate del settore spaziale, hanno abilitato questo tipo di processi ingiusti. Ma spingiamoci un po' oltre. Io volevo dire il fatto che noi viviamo molto di spin-off aerospaziale, cioè di prodotti che per esempio vengono sempre più sperimentati. Ad esempio io posso immaginare la ISS come l'avamposto delle fabbriche terrestri, la più evoluta evoluta fabbrica del pianeta, perché collocata in una posizione tale da poter sperimentare quelle che sono le condizioni sia extra atmosferiche che poi quelle tipicamente terrestri. Ecco, questo vivere direttamente ormai da più di 50 anni questo spin-off aerospaziale, cioè i prodotti che vengono immaginati nello spazio e poi ricadono sulla Terra, secondo te ci sta rendendo multiplanetari? Anche nell'ottica di cui parla poi Elon Musk, cioè che ci promette entro il 2030 di andare su Marte, anche se poi non sarà così, però il fatto che un'azienda privata come SpaceX, che in realtà potrebbe tranquillamente occuparsi solo esclusivamente di satelliti e di comunicazioni di orbite basse, invece ha nel proprio programma la terraformazione di un pianeta, questo ci rende, cioè, come dire, sta rendendo la forza lavoro già multiplanetaria, secondo te, in qualche modo? Fuori di metafora, in altre parole, fuori di metafora. Ti senti un po' multiplanetaria? Mi sento un po' marziana già. Sì. Ah, così me l'avete così. No, io è una domanda. Guarda, grazie. Cioè, io ti ringrazio in realtà per questa declinazione della tematica, perché mi dà un sacco di nuova motivazione anche sul fronte lavorativo. No, diciamo che. Non so, da una parte è una cosa anche che può essere definita in maniera molto romantica, no? Raccontata anche in maniera romantica, sarebbe bello se si potesse veramente vivere così, però come sappiamo, insomma, il capitalismo... Lui è un romantico. Ma a parte questo, però qui ci compagni, qui ci stiamo dimenticando la lotta di classe, cioè nel senso, quello che voi dite è assolutamente vero, e anche il discorso di realismo brutale che fate sullo spazio, però voglio dire, non è che le condizioni dell'Europa tra virgolette diciamo democratica fino almeno a 10-15 anni fa è stata un meccanismo automatico in cui la borghesia ha ceduto diritti a, cioè, ci sono state le lotte del proletariato, le lotte le lotte di classe degli operai, della classe operaia, che hanno avuto e hanno ottenuto quello che devono ottenere. Se noi vogliamo uno spazio libero, se vogliamo uno spazio extra atmosfero libero, non possiamo aspettare che ce lo dia il capitalismo. Dobbiamo combattere, perché dobbiamo organizzarci. Però l'operaio è interno al sistema industriale, no? Il problema è che in questo anche momento... Serena. Esatto. È proprio internissima. Il problema è che in questo momento noi abbiamo la grande maggioranza dell'umanità che è esterno a questo. Come diciamo sempre, siamo in una fase nascente, espansiva. Io Serena la vedo un po' come Rosa Luxemburg. Esatto, mi ci vedo anche. Serena, diccelo tu. No, siamo confusi. Io il modo in cui volevo iniziare, insomma, questa conversazione era proprio di portare luce su, ok, un approccio che sia critico, ovviamente, consapevole, ma anche un po' proattivo. Cioè, esatto, era veramente brava, proprio tipo il mio punto, diciamo. Sicuramente, insomma, è da immaginare questa cosa. Non so bene come, però. Beh, no, lo sappiamo. Attenzione, noi lo sappiamo bene, sappiamo benissimo come, e lo diremo nel terzo blocco di questa trasmissione. O meglio, lo elaboreremo in realtà, cioè noi abbiamo... Aspetta, sì, no? Quello che dici è giusto, aspetta, no, dico, io volevo parlare di un'esperienza... È vero, hai ragione. Non avevo capito. Tu sei andato oltre. Hai fatto un salto nel buio. Esatto, c'è un al di qua. Esatto, sei un avventurista che fa salti nel vuoto, nel buio. Quindi vabbè, allora io direi no, su questo argomento, ecco, insomma, diciamo, adesso ci torniamo, sì. Quindi io metterei al centro la lotta di classe, e io credo che noi possiamo anche vantare la cosa di aver portato un'esperienza di questo tipo. Abbiamo lottato. No, però diciamo un primo esempio di esperienza di lotta in questo campo. Sì, ci siamo posti il problema. Ma noi in realtà poi abbiamo anche raccontato, soprattutto nella prima stagione, il cosmo anticapitalismo, da Bogdanov a Posadas, che citavamo poc'anzi, a Gramsci, fino a Fyodorov, anzi da Fyodorov in poi, cioè, quindi di cosmo anticapitalisti che si sono posti il problema di come accedere allo spazio extrasmosferico in una maniera diversa da quella del capitale. E soprattutto perché accedere, che questo è un argomento cruciale. Assolutamente, per quello che io intendevo dire, sì, è chiaro, cioè noi viviamo in una condizione che possiamo registrare che come situazione negativa, però è chiaro che i margini di di rivalsa di quella che è la classe dei non appartenenti, che non controllano i mezzi di produzione, deve lottare, ovviamente. Sì, abbiamo partito dal presupposto che ci debba essere una lotta. Il punto, secondo me, è che nell'agenda setting dei movimenti dovrebbe cominciare già ad entrare la dimensione verticale. Esatto. Perché, sì, come dicevi tu e come abbiamo tentato anche di spiegare noi, oggi gran parte dei meccanismi del potere, dalla sorveglianza all'ingegneria sociale, arrivano dallo spazio, non più dalla dimensione. Guarda, stai andando proprio al mio ultimo punto. Grazie. E che mi ha letto nel pensiero. E infatti è anche poi un po' una fonte di motivazione, io credo, nella... immaginare questo tipo di approccio critico più proattivo, chiamiamolo così, che dovrebbe guardare anche a un sacco di settori, nel senso non deve essere solo quello spaziale, perché un altro livello che osservo analizzando questo settore è quello, per esempio, di utilizzo e elaborazione dei big data che il settore spaziale sta attualmente fornendo. E anche lì è un altro livello sul quale molta disparità e, diciamo, anche insomma ingiustizia si manifesta già, e quindi potrebbe essere anche quella un'altra risorsa sulla quale insomma connettersi, fare rete per immaginare come riappropriarsi insomma dello spazio e di queste come bene comune. Proprio su questo volevo infatti giusto fare una riflessione riguardo ai dati di acquisizione da satellite, che possono essere utilizzati a vari livelli, da quelli che sono i raw data fino al dato più elaborato che fornisce già l'informazione, perché anche su quel livello lì, quindi quello del prodotto alla fine insomma del processo di produzione, si esprimono delle diciamo che aumentano proprio le disparità, soprattutto sul fronte geopolitico, perché si forniscono dati e quantità di dati che alcuni paesi ovviamente possono, con le tecnologie avanzate che hanno, e si tratta di governi, come purtroppo anche di eserciti ovviamente fortemente, possono accedere all'utilizzo di questi dati e anche proprio gestirli e processarli con i livelli di tecnologie che hanno, che è invece un lusso e che un sacco di altri paesi chiaramente non hanno, e chissà quando lo avranno, probabilmente mai, perché devono invece attendere e fare affidamento su un dato già processato, quindi c'è anche proprio un controllo di come il dato viene processato dai paesi che sono più avanzati in questo. Quindi dobbiamo connettere anche tutti i vari settori per immaginare questa risposta. Io ci aggiungerei anche l'ingegneria genetica, però va bene. Però, insomma, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è lì, ovviamente. Poi è quello che purtroppo, cioè è lì che sono. Sono settori strategici che sono da una parte fuori controllo, perché sono affidati a entità che sfuggono in qualche modo a un controllo politico, se vogliamo, daranno la forma al mondo nei prossimi pochi anni, e sono appunto appannaggio di pochi, e anche all'interno di quei pochi fuori controllo. Quindi, la domanda prima del brano musicale, a cui daremo una risposta dopo il brano musicale, è: che fare? Eh sì, un giovane che si farà. Sì. The universe grows smaller every day. And the threat of aggression by any group, anywhere, can no longer be tolerated. I do run and jump. We have an organization for the mutual protection of all planets and for the complete elimination of aggression. There must be security for all, or no one is secure. E siete sempre in ascolto della diretta da Radio Forte, dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino di Roma, di Bocca Chica Cosmodromo, l'unico programma che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. Lo stiamo facendo con Bimo, con Remax, e lo stiamo facendo con un ospite speciale, Serena, e ci siamo lasciati sulla domanda: che fare? Cioè, c'è un'alternativa di classe all'occupazione dello spazio? È possibile che nessuno faccia niente? oppure qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Però ecco, allora, Serena, prima di lasciarti la parola, perché poi insomma questa cosa magari la raccontiamo insieme, perché la questione è che qualcuno ha pensato di fare qualche cosa nell'ultimo anno e siamo noi. Esatto. Siamo noi, tra l'altro anche Null Pointer di cui parlavamo, che non è presente, che è un compagno anche qui del Forte, che è stato con noi protagonista di questo progetto che si chiamava Comune Cosmica. Esatto. Comune Cosmica, e che proprio grazie alla specializzazione di Serena aveva come progetto, lo dico? Dillo. Il lancio del primo satellite artificiale nello spazio fatto da un centro sociale occupato autogestito. Quindi abbiamo fatto, diciamo, adesso svelo questa cosa brevemente, abbiamo fatto un piano di fattibilità di questo progetto. sì, sì. Quindi insomma sì, era, abbiamo svelato il mistero che tenevate oscuro per tutte queste che puntate in realtà. Esatto, cosa ci proponevamo? Tu ti ricordi? O vuoi... Insomma. Allora vabbè, allora, molto breve, tu di tu Bimo. Sì, guarda, mi lancio io, poi mi correggete voi. Vai. L'idea era appunto di costruire e in qualche modo lanciare in orbita un CubeSat, poi quindi un satellite di dimensioni minuscole, il massimo, il minimo lanciabile e il massimo che noi speravamo di poterci permettere, che avesse dietro, non appunto ricollegandoci al discorso di prima, un gruppo di alta tecnologia o interessi militari, ma appunto il Forte Prenestino. Esatto, il Forte Prenestino con le cose che ha da dire il Forte Prenestino. Infatti si trattava di un CubeSat non geostazionario, che quindi attraversava e percorreva tutto il pianeta, non so per quante volte lo circunnavigava. Sì, che poi si sarebbe disintegrato nell'atmosfera, ovviamente. Prima non avendo propulsione. Sì, prima o poi. Perché la propulsione non c'era. Sì, in realtà quello avremmo dovuto poi occuparci anche della dismissione del nostro, però insomma non saremmo stati gli unici, quindi l'importante era concentrarsi inizialmente sulla fattibilità e il lancio del progetto. Allora guarda, chiudo subito su quello che doveva fare, cioè questo satellite avrebbe dovuto attraversare, circumnavigare il pianeta, però ogni volta che passava su Forte Prenestino, grazie a una potentissima antenna, avremmo potuto con un uplink praticamente dotarlo di un messaggio che poi avrebbe distribuito lungo il pianeta, e avremmo appaltato questi messaggi a tutto il movimento, cioè non sarebbe stata una cosa solo nostra, ma i movimenti potevano... L'osservatorio di Bochum c'è ancora? No, ancora quello... No, sì, c'è... Sì, certo che c'è ancora. E quindi ci avrebbero captato. Probabilmente avrebbero anche captato. E quindi l'idea era quello di dare di creare un vero e proprio megafono per alcuni contenuti antagonisti rispetto al capitale, che fossero poi lanciati nello spazio e fossero continuamente riconfermati e riattivati passando su Forte Prenestino. Dove ci siamo fermati? Facile da indovinare, qualcosa che ha a che fare con la fattibilità del progetto, l'accesso, esatto. Perché purtroppo noi non l'abbiamo detto, perché è stato detto nelle puntate precedenti, il fatto che comunque i costi dei lanci sono stati abbattuti enormemente dai nuovi modelli grazie di lancio al capitalismo spaziale, esatto, però non li hanno abbattuti abbastanza da permettere a noi di lanciare. Guarda, questo è un lato del problema, ma c'è anche un altro problema, cioè l'accesso allo spazio al di fuori appunto da interessi commerciali, scientifici o militari è garantito all'università, poi sostanzialmente. Esatto, io era quella un po' la... E noi non siamo un'università, non siamo ovviamente però quelli di voluto, prima. Però avremmo voluto insomma creare anche un qualcosa di nuovo, giusto? Quindi insomma un po' magari ispirandosi al modello accademico, però non essendo... Diciamo esatto, che... e questo è stato un altro problema, cioè l'esperimento era appunto cercare di accedere allo spazio senza essere uno degli attori che già hanno accesso allo spazio, e questo siamo stati respinti brutalmente. La preposizione che ha usato Serena, secondo me, è un po' il filo rosso. Avremmo voluto, che ritorna sempre, avremmo voluto mettere in orbita, e fino a là forse ci saremmo potuti arrivare, nel senso che alla fine acquisire o creare un CubeSat non è un grandissimo problema. Il metterlo in orbita ha costi molto alti, in realtà, veramente, grazie al capitalismo spaziale, grazie soprattutto a Starship, in realtà, no? Questa cosa si sarebbe potuta anche ammortizzare se avessimo lanciato magari da 3-4 anni, quando la Starship si sarebbe confermata come l'astronave più economica a questo punto e più potente del capitalismo spaziale. In realtà il vero snodo, il vero problema era sull'uplink, cioè sul poter ricaricare di messaggi. In realtà le istituzioni educative hanno dei canali che permettono di accedere a, per esempio, stazioni radio condivise, e ci sono delle modalità per cui un'istituzione educativa, io continuo a parlare di questo perché era quella più affine a noi, sì, il mondo accademico, ha un canale per accedere. Noi non essendo neanche un'istituzione educativa, non avevamo proprio un interlocutore. Però quello, diciamo, quello era un parte del lavoro. Era la grande sfida. Era parte del lavoro, interfacciarci con un'istituzione che potesse accedere a quel tipo di strutture e di tecnologie era una parte del lavoro, insomma. Esatto. Sì, senza compromettersi troppo, perché ovviamente era quella poi la parte difficile, no? Riuscire a trovare comunque una realtà che ci... mantenendo un'identità, quindi. Esatto, cioè, perché comunque quello era sicuramente una condizione sine qua non, ma sì, io credo comunque, insomma, già la definizione di quale fosse il progetto è stato, diciamolo anche, no? Nel senso, ci siamo chiesti che cosa vogliamo fare con questo satellite. Non facile. Esatto, quella è stata pure una discussione, insomma, da affrontare, che poi ci ha anche, diciamo, aperto le menti a immaginare quello che poteva essere costruire una rete, insomma, poi di movimenti che potesse comunicare tramite le orbite. Quindi, insomma, ovviamente che potesse usarlo proprio come un megafono. Esatto, sì, di... si poteva anche, diciamo, un po' superare l'ostacolo dell'antenna per l'uplink, perché se si predefiniva un messaggio perpetuo che non sarebbe, certo, mai cambiato, esatto, però, certo, insomma, l'avremmo potuto realizzare io per quello, per le mie aspettative, anche un cubo di legno che con un adesivo sopra forte prenestino, esatto, quello era anche quello. Magari non di legno, però sì, no, ci sono delle nuove, è vero sì, di sì. Però una cassetta della frutta anche per me con l'adesivo di forte prenestino sarebbe stata abbastanza, sì, e diciamo anche che un po' come dire, abbattere quel muro anche del know-how che adesso, insomma, si può accedere di più, no? A questa conoscenza, a questa tecnologia, cioè da lì poi si parte, poi, esatto, per immaginare come, diciamo prima, quando è che la manodopera poi, insomma, riesce a prendere anche un po' più un processo partecipativo, ed era proprio da là che volevamo assolutamente partire. Cioè, è comunque un processo di autoproduzione e auto-organizzazione, esatto, però sì, in un campo politico nuovo, che è orizzontale, invece, che, diciamo, in questa metafora che stiamo usando, che è orizzontale, non so più bidimensionale, per così dire, insomma. Bimo. No, dicevo, un po' come spazi come Forte Prenestino si sono appropriati della dimensione, esatto, informatica di internet, esatto, esattamente, no? E tecnologica, in quel senso, quella di generazione di tecnologia. Con Havana, ricordiamo, esatto, Havana, di cui, esatto, tra l'altro Null Pointer fa parte. Esatto, esatto, che poi tiene in piedi tutta la cosa. Voi ci sentite perché ci sono loro. Certo, certo. Quindi quel tipo di... come dire, di appropriazione di una tecnologia di origine militare, poi, se vogliamo, anche questa è riuscita, tant'è vero che siamo qui. Abbiamo tentato di fare un'operazione simile con tecnologie spaziali, per il momento, diciamo, che non abbiamo ci iniziato, siamo riusciti, esatto. Però, nel senso, il primo assalto è stato respinto, ma è il primo assalto, per sì, perché sono comunque processi, insomma, lunghissimi, processi con chi lunghi, insomma, tutti i, tra l'altro, adesso mezzi. l'abbiamo svelato, è di pubblico dominio, esatto, e quindi chiunque voglia darci una mano e unirsi al progetto, esatto, il progetto non è morto, è semplicemente in sospensione, perché effettivamente, però, ecco, ci stiamo riorganizzando, ma secondo me, Bimo, le ultime chiacchierate che ci siamo fatti sono anche molto istruttive da questo punto di vista, assolutamente, non solo per una terza edizione di Boca Chica Cosmotor, ma proprio anche sul perché in fondo quello che diceva Serena è molto giusto. Ci siamo posti il problema del perché farlo e di come farlo una volta trovata la risposta, però in realtà ci siamo anche accorti che forse ci manca qualcosa di più strutturato, che è un manifesto, esatto, o un manifesto di intenti più generale, di cui questo è solo potrebbe essere solo, esatto, uno strumento, esatto. Che è il mio salto nel buio di prima. Che è il tuo salto, esattamente, il tuo avventurismo. Aver avventurato. Il tuo avventurismo di prima. Beh, insomma, c'è altro da dire su questo meraviglioso progetto. Io soltanto risentirne parlare vorrei ripartire subito, quindi proprio immaginiamo concretamente, ovviamente, cioè, il settore spaziale è anche un settore tosto, insomma, quindi richiede un po' di impegno, sì, per cui anche per questo immaginiamo, guarda, più Serena, io ti dico questa cosa, noi puntiamo molto su di te, perfetto. Quindi facci piano, ecco, perché sei la chiamata, nostra speranza, Serena. Esatto, cioè, appunto, questa cosa ha cominciato a emergere nel momento in cui abbiamo conosciuto Serena, perché sennò prima chi ci avrebbe mai pensato, invece, insomma, diciamo, la cosa è venuta così, insomma, anche legata alle sue competenze. Io speravo all'epoca che proprio questo essere completamente al di fuori, avrebbe incuriosito qualcuno e avrebbe detto proviamo a farglielo fare. Anche per ma non ci siamo arrivati di autopromozione. Non ci siamo arrivati a quel punto. Non è, no, non è successo, non è successo. Vabbè. No, non è vero che non ci siamo arrivati. Io attivato. Per esempio all'università qui alla Sapienza ho degli ex compagni di studi che hanno fatto fortuna e quindi sono... Però non sono riuscito a incuriosirli abbastanza. Ti hanno riso in faccia. No, sono stati molto educati, molto carini, certo, per carità. Però certo. Mi hanno fatto capire che no. Avevo provato anche un canale con l'ESA, anche sarebbe potuto essere. Sì, perché ci sono i progetti, quelli test scientifici. Esatto, insomma, però l'ESA purtroppo viene fuori, è molto molto molto burocratizzato. Esatto, quindi se tu ti esci dalla griglia non esiste. Se tu gli hai detto vogliamo portare l'antagonismo nello spazio e loro hanno detto ma che è effettivamente... No, sono stato e ci stupiamo. Sono stato più abile di così, ma non abbastanza abile. Va bene, diciamo che dovuto a questo un po', forse purtroppo è proprio solo il settore privato che sarebbe stato quello da consultare, però non possiamo perché siamo qui a contestare. Certo, esatto. Quindi, esatto. Dobbiamo reinventare. In questo dovevamo essere un po' troschisti, fare entrismo e quindi utilizzare il capitalismo contro se stesso, insomma. Esatto, combatterlo dall'interno. Secondo me sì. Allora, e tutta questa discussione, avete assistito a tutta questa discussione, così siete arrivati per caso, avrete pensato che si stia parlando di cose effimere, invece no, perché siete all'ascolto di Bocca Chica Cosmodromo, ovvero l'unica trasmissione nell'universo che parla di espansionismo del capitalismo nella dimensione extraatmosferica. Lo stiamo facendo stasera in una maniera un po' particolare. C'è un cigolio inquietante. Va bene. Con la nostra compagna Serena, ultimo pezzo musicale per poi rientrare per la nostra rubrica più del cuore, che è quella di Cuore Matto, quindi a tra pochissimo. It's coming down hard, we got to get our shit together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformists, one-hitter quitters. For Tyson types and shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen, let's make something happen. Word to Viper, gonna bring it to the overlord. Drake and Cisco chilling with the gold microphone cords, and we grip our balls every time we stunting on tour, cause we never bore, responding to the ready crowds roar, and promoters try to hit us with the audible. We about our business, we not quitters, not bullshitters, we deliver, we go getters, don't be bitter, cause we not just niggas. Jerobe, my fire wove into different cloth, ain't nothing forbidden, the segregate is written off, hard to spit in the city, I'll make the spitting kids off. Confused in the maze, you can put your brain missing, lost and planning for our future people. None of our people involved. Pouring handy and smearing off, the kid cracking off and smearing off. Quickly turn the Molotov. Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. It always seems the poorest persons, the people forsaken. Dog the Washingtons, Jeffersons, Jacksons on the captain's log. They'd rather leave us to the greatest water poison, deli smog. Mass unblackening, it's happening. You feel it, y'all. I'd rather see we need 3x3 structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We're taking off to Mars, got the space vessels overflowing. What you think they want us there? All us niggas not going. Reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream in the car stereo. Where they would promote the show. Optimistic little brother with a real hope. You know, space program for niggas. Yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas. Yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas. Yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas. Yo, you stuck. Sometimes I read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways. And the president's refining her wings, she's confined with about 30 Percocets and 5 bottles of wine. Carolina, nothing finer than a black woman who climbs to the top of the state building, claiming that their flag is mine. Now people on top of people feels like we can't breathe. Put so much in this motherfucker, feel like we shouldn't leave. Put it on TV, put it in movies, put it in our face. These notions and ideas of citizens live in this space. I chuckle just like all of y'all. Absurdity, after all, takes money to get it running, and money from trees don't fall. Imagine for 1 second all my people of color, please. Imagine for 1 second all the people in poverty, no matter the skin tone, culture or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone? Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Nah, cipher, probably no place to. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space too. Trying to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. E siete sempre in ascolto di Bocca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione dal Forte Prenestino, CSOA di Roma, centro sociale occupato autogestito, ma anche unica trasmissione nell'universo che si occupa di espansionismo del capitale nella dimensione extra atmosferica. Ci siamo dimenticati, Bimo, di dire chi era l'autore del pezzo precedente. Prezzo precedente che non ha un titolo, che gli ascoltatori della trasmissione avranno in qualche modo riconosciuto, perché la come sigla, stile dici? No, la sigla di Andromalis è tratta dallo stesso film, ed è un pezzo molto politico, anche come questo che avete appena sentito, perché... e che non ha un titolo in questo momento. Ma l'autore? L'autore è un giovane artista emergente di nome Acoatto, che potrete trovare su SoundCloud se vi interessa. Questo pezzo no, però non lo troverete su SoundCloud, perché è ancora una versione preliminare. Va bene, allora insomma, intanto invece su quello che stiamo sentendo in sottofondo, lo interrompiamo bruscamente con la sigletta della nostra rubrica principale e preferita, Cuore Matto. Che sviolina. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. Lasciateci dove siamo, così potranno giocare tra le stelle. Stiamo decollando per Marte. Le navi spaziali sono stracolme, ma cosa? Pensi che lì ci vogliano? Tutti noi neri non andremo. Questi erano il brano di prima, erano i Tribe Called Quest, The Space Program. Dice dobbiamo andare a sinistra, non a destra. Cioè, quindi un po' metafora di una visione cupa, no? Del afrofuturismo, una versione in cui a seconda della classe si ricollega casualmente a quello di cui stava parlando prima Serena, a seconda della classe ma anche della razza si può essere esclusi, no, dai processi di sviluppo. Usano un po' la metafora, un po' una denuncia diretta di tante cose che accadevano negli Stati Uniti qualche anno fa. La solita rubrica Cuore Matto di cui non si capisce mai di che cosa parla. Ma benissimo, non, va bene, fantastico. Non si sa, questa era la canzone, va bene, il pezzo che abbiamo dato. Quindi questa non era la rubrica, questa era la canzone. Questa era la premessa, questa era la presentazione. E non abbiamo neanche detto che è a cura di Ray Max. Vabbè, Ray Max che su SoundCloud segue Acoatto e lo consiglia calorosamente, questo è un giovane talento, Acoatto, chissà da dove proverrà. Chissà. E la rubrica di questa sera non so neanche io di che cosa si parla, sono ancora ovviamente è bene non sapere quello di cui si parla. In realtà è stato ispirato sia dalla rubrica di Andro che salutiamo, perché dal film, no, da cui viene ispirato, Clatù, sì. Barata, Nikto, esatto. Cioè l'ordine nello spazio, cioè per chi ha visto, non spoileriamo il film, però, e da discorsi fatti con Cobb, anche questa cosa che prima Cobb l'ha ricordato, cioè noi immaginiamo le esperienze, no, nello spazio, le basi spaziali come l'esempio più avanzato di fabbrica del futuro, ma come io ho provato a immaginare, come vediamo noi le persone che abitano queste missioni spaziali? Noi siamo un po' abituati a vedere come degli eroi alla fine, no? Come dei pionieri, come degli eroi. Ci arrivano queste immagini. Se ti riferisci a Samantha Cristoforetti, no. No, no. Decisamente no. No, ma no, non solo no. Lei, poverina, però diciamo che lei è stata veramente al centro di una esaltazione fuori luogo completamente. Però... Ma noi siamo poco significativi. Il grande pubblico. Vabbè. Però viene in qualche modo invitato a vederli così. Certo. E ritorniamo indietro ad esempio alle missioni Apollo, no? Le missioni Apollo che quindi noi ancora immaginiamo come eroi, no? Arriviamo al primo episodio, vi vorrei raccontare tre episodi leggeri, questo, se ci riusciamo, se no anche un paio questa sera. I furbetti spaziali, cioè poi in realtà è il primo esempio di capitalismo spaziale deviato o semplicemente sfacciato. E risale addirittura alla missione Apollo 15, 1971, la quarta missione ad atterrare sulla Luna, durata ben 12 giorni, no? La prima ad avere un rover lunare, grande successo scientifico e tecnologico, ma c'erano i furbetti spaziali, c'era una crew, un equipaggio di tre persone, tra cui il James Ewing, che è uno dei personaggi preferiti miei, di Gobble e di me, uno che nello spazio ha visto la luce e poi è diventato predicatore sulla Terra. E questi simpatici astronauti avevano portato, a differenza di Gagarin, che ha preferito uccidersi, che schianto esatto. Anche Gagarin, ricordiamo la rubrica "Che schianto", che vorremmo risentire. E questi astronauti, si è scoperto che avevano portato nascoste nelle loro costosissime tute spaziali 400 buste affrancate da francobolli, perché avevano un traffico di collezionismo, con un collezionista tedesco. Cioè, pensavano che portare queste buste affrancate nello spazio, portarle sulla Luna, riportarle indietro, poi rivenderle. La posta che è andata più lontana, cioè il servizio postale che si è trasferito più lontano dell'umanità, quindi ha un senso. Dei pulciari, casualmente è un pochino la trama dell'uomo che vendette la Luna di Heinlein, no? un grande scrittore di fantascienza. E che succede? Chiaramente questa cosa viene scoperta, è successo uno scandalo, in realtà, di cui adesso si parla poco. Vorrei anche vedere. E con addirittura una udienza di fronte al Senato. Queste persone non hanno più volato nello spazio, non sono mai state bandite ufficialmente dalla NASA, però non hanno più volato nello spazio, sono diventato un predicatore. La cosa divertente è come sono stati visti però dal pubblico sono stati visti come degli eroi che avevano fatto una... come dei bambini che avevano giocato troppo, e il termine che fu la definizione dei Fallen Angels, degli angeli caduti. questa è la visione, quando si parlava poi della visione romantica, no, dei personaggi. La stessa definizione di Lucifero. No, questi poi praticamente stavano arrotondando. Questi stavano arrotondando con... Non è l'unico esempio, ma questo è rimasto più famoso anche perché, da quello che so, sono state poi, che ho letto, sono state cambiate delle regole. È successo altre volte, sia nell'ambito NASA che in quello Roscosmos, di oggetti portati per guadagno personale, ma loro erano stati particolarmente sfacciati. Non ci credo comunque. Sì, erano state portate. La puntata precedente stava... delle immagini sacre erano state portate. Per venderle poi. Anche, cioè, ci sono varie cose. Poi chiaramente si sa. Pare che solamente l'ESA non abbia avuto problemi di questo tipo, però. Vedi Samantha. Però sta a vedere. La solita propaganda atlantista. Poi che cosa succede? Dice, come si comportano, dice, quando ci sono problemi, no? In una missione spaziale, chiaro, soprattutto, e qua sempre ispirati alle canzoni dei Icobol Pongide, in uno spazio ristretto. Anche al manuale del cosmonauta. Anche al manuale stavo arrivando, anche il libro che consiglio chiaramente a tutti i lettori, quasi più del disco di è la prima volta che stiamo facendo pubblicità, sennò sembra vabbè, io faccio messo in piedi questa cosa, io faccio come io la faccio prima, come Apollo 15 la primissima volta. Io avrei delle lettere affrancate. Ma io sono chiaramente con Apollo 15, quindi faccio in realtà gli affari degli amici, faccio il manager degli amici e compagni. Che cosa succede? Dice, come si comportano quando una crew, quando una missione spaziale sono dei problemi, come fanno a come si va in sciopero nello spazio? Si chiudono le comunicazioni con la Terra. Quindi il primo esempio famoso, ne sono due famosi, uno lo Skylab 4 in ambito NASA e poi il Salyut 7 del 1985, 10 anni dopo, noto proprio come lo sciopero del Salyut, dove, avendo avuto problemi soprattutto dovuti allo stress e a quello che i componenti delle missioni vedevano come un programma troppo intenso, troppo fisicamente stancante ma anche rischioso, che cosa fanno? Chiudono, e anche pare dei litigi, ma questo non è chiaro, dei litigi all'interno della missione, chiudono le comunicazioni per 24-48 ore, che è effettivamente un metodo molto efficace per ottenere l'attenzione del ground control, perché posso immaginare il panico anche che si può creare, no, a terra. D'altro canto sembra un po' un atteggiamento dei bambini, ti faccio il trattamento del silenzio, non ti parlo, pappappero, e vediamo come la mettiamo. Però pare che abbia funzionato in entrambi i casi. Ultimo episodio, perché si litiga o si diventa amici durante una missione spaziale? per cibo e alcol, apparentemente. Per cui, quindi un esempio. Sono molto sorpreso. Siamo molto sorpresi. Poi quale cibo e quale alcol? Questa è pure una questione. Un esempio famoso di litigio spaziale è avvenuto nel 1996 e vede protagonista Shannon Lucid, una astronauta statunitense veterana, aveva già fatto, se non sbaglio, 3 o 4 missioni importanti, ed è la prima e tuttora l'unica astronauta statunitense ad avere fatto una missione con astronauti sovietici o russi. Quindi è parte una missione della Mir che è durata ben... ci sono stati tantissimi... Ma questa è l'unica donna. Rendezvous. Ah, ok. Okay. L'unica donna ad avere, tra l'altro, 180 giorni, okay, una missione particolarmente lunga. Sì. No. La prima è la Mir... Non ricordo quale. Ok, però nel 1996, quindi lo possiamo andare anche a cercare. Cosa succede? Questa missione l'avevano avvisata, cioè guarda che i russi mangiano cose diverse, mangiano pesce in gelatina, mangiano il borscht. Lei si era portata delle cose altrettanto deliziose, cioè le M&M's e il Jell-O, che per chi non lo sa è una gelatina preconfezionata schifosa, cioè una cosa assolutamente invedibile. Lei si era portata la sua riserva di cibo, però la missione viene prolungata perché il razzo, la navicella Progress, che doveva portare gli approvvigionamenti, ha un incidente e quindi viene tutto prolungato e loro si trovano a combattere praticamente tra di loro per il cibo e nasce la lite tra Shannon Lucid e in particolare pare un cosmonauta russo. Anche lì si va un pochino in silenzio di trasmissioni. Fast forward, tutti amici, perché Shannon Lucid inizia a condividere con i russi questo Jell-O, che secondo me era un caso sbelli, però se li è comprati con un po' di gelatina. Se li è comprati con un po' di gelatina. Allora io direi che veramente si tratta della rubrica, diciamo, più caotica dell'universo. Più caotica, vi racconto solamente il finale, che lei è arrivata a terra, trova un pacchetto infiocchettato di Clinton con l'MMS. Beh, benissimo, insomma. Che meraviglia. Allora, questa è stata... ci mancherà moltissimo questa rubrica Cuore Matto. A me più di voi, però. Allora, avete ascoltato la 13ª e ultima per questa stagione puntata di Bocca Chica Cosmodrome. Ve lo ricordiamo, si tratta ancora dell'unica trasmissione radiofonica che si occupa di capitalismo extraatmosferico, di espansione del capitale nello spazio. Io intanto vorrei ringraziare sicuramente Serena, che ci ha fatto fare una puntata bellissima, sì. E che tra l'altro aspettiamo dalla prima puntata, diciamo. Non possiamo neanche darle un adesivo perché ce l'ha già. Esatto, ma noi è dalla prima puntata che aspettiamo il suo ritorno a Roma per fare questa puntata. Io ho anche spinto per fare, abbiamo invitato a farne un'altra perché mi era piaciuta tantissimo la prima, quindi certo, no, beh, tra l'altro non sapevo, però mi aspettavate dalla prima puntata. Dalla prima puntata, noi pensavamo di poterti avere qua prima. Sono fatta attendere ogni volta, ma Serena niente. Sicuramente un paio di puntate in più l'abbiamo fatte per aspettare te. Quindi per il piacere di tutti, hai visto? Esatto, però insomma secondo me ne è assolutamente valsa la pena. Allora io intanto poi voglio ringraziare sicuramente Andromalis con i suoi contributi importantissimi in tutte queste puntate. Intanto per ringraziare chi dall'esterno ci ha aiutato e poi ovviamente Bimo con me che ha co-condotto e il nostro Remax che ha attraversato tutte le rubriche possibili e immaginabili. Il nostro Cobol, esattamente. Vi ricordo che troverete tutto su ancora fortepenestino.net nella slot Bocca Chica Cosmodrome, nella slot Radio Forte, nella slot Bocca Chica Cosmodrome, in cui oltre a trovare i podcast delle puntate di questa seconda stagione troverete quelli fondamentali della prima stagione. Serena, fondamentali, giusto? Fondamentali. Da risentire più volte, esatto. Da studiare. Esatto, molto lunghi, molto accademici, diciamo. Sì. E forse troverete anche i podcast della terza stagione, chissà. Vabbè, quello a venire. Questa era l'ultima domanda e l'ultimo pensierino rivolto anche a te, Bimo, perché insomma qualche idea noi ce l'abbiamo. Sì. E bisogna forse mettere un po'. Abbiamo mettere un più pochino. Idee rispetto a quelle che avevamo alla fine della prima stagione. Esatto. Diciamocelo chiaramente. Bisogna vedere se riusciamo a mettere idea a frutto. Più pratica anche, no? Sì, perché siamo molto più ambiziosi. Uh-huh. Sì, sì, abbiamo più ambizione. Sì, sì. Abbiamo anche questo progetto che abbiamo rilanciato, che appena rilanciato questa sera. Io mi sento più motivata adesso, quindi. Va bene. Allora, io vi sto per lasciare, vi lasciamo con la nostra consulenza. consueta sigla. La cambieremo nella prossima stagione. No, non credo. A me piace, bella così. A me piace moltissimo, quindi la lasceremo. Ovviamente va ringraziato Null Pointer, vanno ringraziati tutti i tecnici del Forte Prenestino e Radio Forte che ci ha concesso e che continua a concederci questa trasmissione di cui facciamo parte, ma che sia in parte anche, come dire, siamo anche elemento di cui siamo elemento assolutamente orbitante. Non possiamo non ringraziare il Forte Prenestino, il centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, che ci dà la possibilità di essere liberi di fare trasmissioni di questo tipo. E allora con la sigla e alla prossima stagione. Alla prossima stagione.